so, non va. Lasciamoci così, a meglio stare solo. Cosa ci faccio qui? Adesso prendo il volo. C'è un momento giusto per dire così, in modo che non ti voglio ferire. Se credi è meglio che per te. Siamo in due mondi opposti, ci ho messo un po' a capire che così mi farà ammattire. Sto troppo male senza me. Ma dai, ormai che tu lo sai. Lasciamoci così, è meglio stare solo. Cosa ci faccio qui? Adesso prendo il volo. Supreme.